Quindi quella lì, arrivederci Dario, quando è che l'hai cominciata? A scriverla? Sì. Ieri. E ieri quando? Ieri, appena siamo arrivati. Ah. L'avevo cominciata, ma tutto in un'altra versione in milanese. Cioè, come In l'hai cui, no, cominciata? era una versione diversa. Cioè? Senza, non c'entrava lui, era. Prova a farla, penso. No, no, no, no, non era musicata. Ah, non era musica. Cos'è? La sirena? Forza Tonio si stacca, forza Forza Ndè, manca a Ndè, te manca Luigi, Tiresi. Ndè Ah, Maltrani a fa Tonio. fiora la stracca con un para dei litri di Gel cu che va in sconfondera. No, gol cu che va a sconfondere. Ego io c'ho che fa nel Sara Sara, da Gadenter, ammo Amò col col Barbera barbiere, e po' canta la pocanta usla la venciara. lanciara. Viva la vita, pagata a rate, con la 600, la lavatrice. Viva il sistema, che rende uguale, fa felice. Io so che un giorno verrà da me un uomo bianco, vestito di bianco, e mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco. E la sua mano con un sorriso mi darà, mi porterà tra bianche case, di bianche mura, in bianchi cieli. Tela greggia dura e bianca, e avrò una stanza, un letto bianco anche per me. Vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi, bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni come se fosse la realtà. Con tanti altri forti e bianchi, e al mio letto, stretto con cinghie, mi legherà la libertà. Dirò: è un fatto, voi mi legate. Ma essa resiste. triste sorrideranno. Mio caro amico, tu sei matto, la libertà più non esiste. Tua libertà.